GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Italia, Slovenia e Croazia si impegnano a rafforzare la cooperazione economica. È quanto contenuto nella dichiarazione di Ancona che verrà firmata dal ministro degli esteri Antonio Tajani e dai colleghi di Lubiana e Zagabria nell'ambito della trilaterale sulla cooperazione dell'Alto Adriatico. Sanità, piano ferri a ostacoli a Pordenone, reparti accorpati e personale costretto a saltare i turni di riposo. Il presidente Fedriga terzo nella classifica del gradimento dei governatori dopo Bonaccini e Zaia. Fra i sindaci, sedicesimo Alessandro Ciriani, primo cittadino di Pordenone. Poco sopra il 50% il sindaco di Trieste, di Piazza. L'Università di Udine conquista il secondo posto nella classifica del Censis. L'Ateneo Friulano scala di 3 posizioni il ranking delle università di medie dimensioni, superando Siena. Sesto posto per Trieste. 2 interventi del soccorso alpino, tratto in salvo sul Monte Peralba un giovane escursionista, altri 2 salvati con l'elicottero a Durano, in comune di Erto. Importante cantiere stradale a Monfalcone per snellire il traffico in direzione di Grado di Trieste. I semafori dell'incrocio di Viale San Marco saranno eliminati questa notte. Domattina gli automobilisti troveranno una rotonda. 6 targhe commemorative realizzate dal comune di Udine per celebrare altrettanti personaggi illustri del passato friulano. Le prime 3 scoperte oggi in una cerimonia. Ancora una buona giornata da Lara Zani ed Elisabetta Zaccolo in studio per questa seconda edizione del nostro giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Al via ad Ancona il summit trilaterale Italia-Croazia-Slovenia, tra i temi anche il dossier migranti. Puntiamo a rafforzare la cooperazione politica in materia migratoria e a consolidare la crescita economica tra i nostri paesi, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Rispetto alla cooperazione nell'Alto Adriatico, il testo della dichiarazione di Ancona, che verrà siglata a breve, ribadisce l'impegno dei 3 paesi a lavorare congiuntamente per sfruttare appieno il potenziale di crescita e di sviluppo dell'area, anche nei settori dell'innovazione e della tecnologia, citati il Big Science Business Forum 2024, che sarà ospitato a Trieste, e la creazione della Valle dell'Idrogeno. A cooperare strettamente in tema di protezione e sostenibilità dell'ecosistema adriatico, a valorizzare la cooperazione dei sistemi portuali e a rafforzare il coordinamento in tema di sicurezza marittima. Sui temi di politica estera, la dichiarazione di Ancona ribadisce il sostegno all'Ucraina e l'impegno dei 3 paesi a Kiev, anche in ottica della ricostruzione. Sui Balcani occidentali, i 3 ministri riaffermano la centralità del processo di integrazione europea, nonché l'esigenza per l'Unione di rafforzare il proprio impegno a sostegno dei paesi dell'area. Piano ferri è pronto per la sanità pordenonese, ma si preannuncia un'estate difficile, con accorpamenti di reparti e disagi per il personale, che sarà costretto a saltare i giorni di riposo per garantire i servizi ai pazienti. Si preannuncia un'estate calda per la sanità pordenonese. Per garantire le ferie a medici e infermieri, il personale che resta al lavoro, denuncia il sindacato, sarà costretto a rientrare nei giorni di riposo per garantire i servizi all'utenza. Servizi che oltretutto prevedono un'operatività ridotta, già chiusa medicina Covid, 24 posti letto, i posti della medicina d'urgenza saltano a luglio e agosto, accorpati con altri reparti quelli della chirurgia della mano, e per tutto agosto resterà chiusa anche la chirurgia degenza breve. Pierluigi Benvenuto è segretario provinciale CGL Sanità. L'estate è calda, calda in tutti i sensi, per il personale è molto calda, per poter fare le ferie che sono state programmate, chi rimane in servizio deve sobbarcarsi i turni delle persone aggiuntivi, cioè nei propri riposi devono rientrare per permettere alle colleghe di andare in ferie. Per l'utenza sicuramente sono situazioni pesanti. I reparti più in crisi sono sicuramente le aree dell'emergenza, questo sia il pronto soccorso adulti ma anche il pronto soccorso pediatrico. La situazione del materno infantile è veramente pesante, ma ripeto, farei torto agli altri servizi non citarli, perché tutto l'ospedale, tutti gli ospedali sono in grossa difficoltà. In sofferenza anche il territorio. Per garantire i turni delle RSA viene trasferito il personale destinato all'assistenza domiciliare. Carenza di personale non compensata dal recente concorso per una 30 di infermieri. L'ultimo concorso per degli infermieri con 32 persone in graduatoria, 16 sono già dipendenti, quindi verranno stabilizzate, che è una cosa importante. Delle altre 16 non abbiamo ancora notizie se e quando arriveranno, quindi se dovessero arrivare sono una goccia in un oceano. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ora il sondaggio del quotidiano Il Sole 24 Ore sul gradimento dei pubblici amministratori. Il presidente Fedriga si colloca al terzo posto. Tra i sindaci rimane alto l'apprezzamento del primo cittadino di Pordenone Ciriani, ma sentiamo i dettagli della classifica. Se i volti sul podio restano gli stessi, è il loro ordine a cambiare. Parliamo dell'annuale indagine di Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore sul gradimento dei presidenti di regione, che nell'edizione 2023 vede quello del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, scendere dal secondo al terzo posto, lo stesso che occupava nel 2021, con il 64% dei cittadini che, se si andasse a elezioni, lo rivoterebbero. A precederlo in testa alla classifica c'è Luca Zaia del Veneto, 68,5% dei consensi per lui, che dopo anni però perde la prima posizione in favore di Stefano Bonaccini, altro abitué del podio. Lo scatto decisivo del presidente dell'Emilia Romagna, il cui gradimento in un anno è cresciuto dal 65 al 69%, secondo Il Sole si deve in particolare all'esposizione di prima fila nei difficili giorni dell'alluvione di maggio. Tornando a Fedriga, il consenso per il presidente della nostra regione è diminuito di 4 punti rispetto all'anno scorso, ma resta più elevato rispetto al 59% del 2021. Per quanto riguarda invece la classifica dei sindaci, che vede in testa quello di Milano Giuseppe Sala, cresce lievemente, più 0,3%, il gradimento di quello di Gorizia Rodolfo Ziberna, al 54° posto. In lieve calo invece Roberto Di Piazza di Trieste, che perde lo 0,9% e con il suo 50,5% di consenso si classifica 66°. Ma a perdere di più, meno 8,9% e 16° posto rispetto al decimo di un anno fa, è il primo cittadino di Pordenone, Alessandro Ciriani. Udine, infine, come tutte le città in cui si è votato pochi mesi fa, non è stata presa in considerazione dall'indagine. Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia. L'Università di Udine conquista il secondo posto nella classifica del Censis. L'Ateneo Friulano scala di 3 posizioni il ranking delle università di medie dimensioni, superando Siena. Sesto posto per Trieste. Udine sorpassa Trieste nell'ultima classifica delle università italiane stilata dal Censis. Il rapporto, pubblicato oggi in anteprima dal quotidiano La Repubblica, sottolinea l'incontrastato primato a livello nazionale dell'Ateneo di Bologna, consolidato da 14 anni, seguito da Padova e dalla Sapienza di Roma. Un'analisi che è suddivisa per più categorie a seconda del numero di iscritti e pone i due istituti regionali nella classe cosiddetta media perché registrano tra i 10.000 e i 20.000 iscritti. In questa categoria gli Atenei regionali si posizionano in fascia alta, con Udine al secondo posto, preceduta da Trento, e Trieste al sesto. Posizioni attribuite calcolando una serie di parametri che spaziano dalla qualità delle strutture, con un'analisi che contempla il rapporto tra i posti disponibili in aula e il numero degli iscritti, fino al tasso di occupabilità. Numeri da analizzare con attenzione, sottolinea il rettore dell'Università di Trieste, Roberto Di Lenarda, perché la media totale pone entrambi gli istituti regionali al di sopra di quelli ai primissimi posti. In ogni caso, sottolinea Di Lenarda, Trieste sa di poter contare su ottimi risultati in fatto di ampiezza dell'offerta didattica, rapporto tra numero di docenti e di studenti, laboratori e qualità dei servizi. E se Udine sorpassa Trieste in fatto di comunicazione e servizi digitali, questo è un punto su cui i giuliani hanno già in programma di intervenire. Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca: è stato tratto in salvo nella notte un escursionista romano di 19 anni finito fuori dal sentiero mentre scendeva dalla vetta del Monte Peralba sul versante ovest. L'operazione è stata condotta dal Soccorso Alpino di Sappada e dai Vigili del Fuoco di Santo Stefano di Cadore. L'allarme era stato dato dallo stesso giovane salito in vetta lungo la ferrata Sartor nel tardo pomeriggio. Iniziata la discesa della via normale, aveva smarrito la traccia 300 metri sotto la cima. Seguendo la traccia del proprio GPS, era infatti finito fuori traccia in un tratto molto ripido ed esposto, dopo essere ruzzolato, fortunatamente senza danni, per alcuni metri. A quota 2.400 circa si era dunque fermato a chiedere soccorso. È stata la pila frontale del giovane a dare ai soccorritori la certezza della sua posizione. È stato raggiunto poco prima delle 2, quindi i soccorritori lo hanno assicurato e riportato sulla via normale. Il rientro alla base della parete è avvenuto alle 4 del mattino e questa mattina si sono concluse concluse le operazioni di soccorso di due escursionisti, un 61enne di Trieste e un 57enne di Roma, che nella notte avevano inviato una richiesta di aiuto dopo essere stati colti dal buio su un terreno ripido e impervio sulle rocce lungo la discesa del Monte Duranno a quota 2200 metri in comune di Erto. I due sono stati raggiunti dall'elicottero della Protezione Civile regionale. 7 persone coinvolte, 5 delle quali ferite, sono il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina nel territorio di Duino Aurisina, lungo la regionale 14, ingresso Sistiana Mare. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Aurisina, 2 vetture si sono scontrate frontalmente e hanno preso fuoco. Sul posto l'equipaggio di un'ambulanza, l'automedica, l'elisoccorso e i vigili del fuoco di Opicina e di Monfalcone. 3 i feriti in codice giallo, uno dei quali condotto all'ospedale di Cattinara e 2 al Burlo Garofalo a Trieste. Altri 2 sono stati accolti in codice verde all'ospedale di Monfalcone. Consueto sguardo al tempo, il cielo in prevalenza sereno sulla regione, poco nuvoloso sul Darvisiano, le temperature registrate alle 11, a Trieste 27 gradi e 5 decimi, il mare calmo con una temperatura di 25 gradi, a Gorizia 31 gradi, a Pordenone 30 gradi e 5 decimi, a Udine 30, a Tolmezzo 27, a Tarvisio 26 gradi e 5 decimi, a Forni di Sopra e Sappada 25 e 5, sul Piancavallo 23 gradi, sul Monte Zoncolan 22 gradi e 5 decimi, sul Monte Lussari 20 gradi e 5 decimi, a Lignano 29 gradi, a Grado 27, la temperatura del mare nelle 2 località è di 27 gradi e 5 decimi. E vediamo le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia per le prossime ore. Caldo in genere su tutte le zone, su pianura e costa cielo sereno con venti di brezza e caldo afoso di pomeriggio in pianura e la sera sulla costa. Sui monti dal pomeriggio cielo da poco nuvoloso a variabile e sarà possibile qualche rovescio locale, più probabile eventualmente sulle Alpi. Zero termico oltre i 4.000 metri. I temi dell'immigrazione, flash mob questo pomeriggio alle 17 sotto il municipio in Piazza Unità a Trieste, promosso da Adesso Trieste. La motivazione, si legge in un comunicato, protestare contro la decisione della maggioranza in Consiglio Comunale di non prorogare le misure per l'emergenza freddo. Dal 1 luglio ci sono decine di posti letto in meno per l'accoglienza notturna, altre persone che si aggiungeranno a quelle che già sono costrette ogni notte a dormire all'aperto. I partecipanti terranno in mano un telo isotermico giallo come atto di denuncia e per testimoniare il valore dell'accoglienza. Rivoluzione in vista a Monfalcone per uno snodo fondamentale della viabilità, l'intersezione nei pressi del canale Valentinis. Dopo 17 anni di attesa, questa sera alle 22 prenderà corpo il progetto per l'opera strategica che snellirà il traffico in ingresso a Monfalcone e che costituisce l'unica via alternativa all'autostrada per raggiungere Trieste. È il grande incrocio fra Viale San Marco, Via Boito e Via Kosulic che la sindaca di Monfalcone, Anna Maria Cisint, vuole ribattezzare la grande rotonda più a nord del Mediterraneo. Dalle 22 di questa sera e solo fino alle 6 di domani mattina l'incrocio sarà chiuso al traffico e i mezzi bus di linea compresi saranno deviati nella viabilità intorno. Ad aiutare gli automobilisti ci saranno 6 addetti dell'impresa e 4 agenti della polizia locale, oltre ai numerosi cartelli di deviazione. Dalle 6 di domani mattina il traffico scorrerà poi normalmente intorno alla nuova rotonda provvisoria già installata e non ci saranno più i semafori. Il progetto vale 5 milioni di euro di fondi regionali, sarà eseguito dalla ditta Polese su delega di FVG Strade. In tutto i lavori dureranno un anno. La rotonda provvisoria servirà a far scorrere il traffico permettendo contemporaneamente agli operai di scavare l'incrocio e le strade per la rimozione dei sottoservizi, tubi dell'acqua, gas e linea telefonica. Solo i cavi dell'elettricità non saranno spostati. Questo lavoro durerà fino al 15 ottobre, permetterà così di installare un sottopasso per pedoni e bici lungo 30 metri che sarà costruito esternamente al cantiere a pochi passi. Le utenze dei residenti della zona non saranno interrotte e i disagi saranno ridotti al minimo. Monfalcone, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia. Cimolai ha ricevuto a valle del deposito dell'integrazione della propria proposta di concordato preventivo il preliminare supporto di SACE, la società per azioni controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulle modalità di riscadenzamento del debito proposte presso il Tribunale di Trieste, ad annunciarlo la stessa società, spiegando che si tratterebbe di un passo significativo per supportare il perseguimento degli obiettivi del proprio piano industriale nell'ambito della procedura concordataria in corso. corso, nel caso di supporto anche degli altri istituti finanziari coinvolti. L'accordo prevede che Cimolai metta in essere concrete iniziative per rafforzare e consolidare i propri impegni su tematiche come quella della finanza sostenibile. A fine marzo Cimolai S.p.A. e Cimolai Holding erano state annesse al concordato preventivo. Il piano di salvataggio prevede la creazione di una NewCo, una nuova Cimolai, interamente partecipata dalla Luigi Cimolai Holding. I dati sulla produzione europea di pannelli in legno nel primo quadrimestre del 2023, già in calo dalla metà dell'anno scorso, fanno presagire un'imminente frenata dell'edilizia, causata dall'aumento dei tassi di interesse della BCE che ha bloccato in tutta Europa gli investimenti delle famiglie. Tra gennaio e aprile, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, la produzione europea di pannelli è scesa del 9%. Il dato è emerso nel recente incontro svoltosi a Santiago de Compostela, in Spagna, organizzato dalla European Panel Federation, al quale ha partecipato anche il friulano Paolo Fantoni, cofondatore e past president dell'organizzazione e attuale presidente nazionale di Assopannelli. La disposizione dei consumatori dopo un biennio di robusto sviluppo è ora in forte calo, ha commentato. Le richieste di licenze edilizie sono in contrazione in tutti i paesi europei. Si tratta di un segnale di allarme che va colto da chi crede che una politica di rialzo dei tassi sia risolutiva per contrastare l'inflazione. Il continuo aumento del costo del denaro agli speculatori fa il solletico, mentre alle famiglie fa molto male. Scoperte oggi le prime tre delle sei nuove targhe commemorative che il Comune di Udine ha realizzato per celebrare altrettanti personaggi illustri del passato friulano. Jacopo Pirona, Don Giuseppe Marchetti, Gianfranco Daronco, Tiziano Tessitori, Novella Cantaruti e Aurelio Cantoni. L'iniziativa è nata con la collaborazione tra Comune, Regione e Arlef, l'Agenzia Regionale per la Lingua Friulana. Spiega la scelta Stefania Garlatti Costa, neodelegata all'identità friulana e il plurilinguismo. Tutti e sei in realtà i personaggi illustri sono delle grandi personalità del Friuli, persone che hanno fatto il Friuli ed il friulano in momenti diversi della nostra storia. La prima targa ad essere scoperta è la memoria di Gianfranco Daronco, uno dei giganti della cultura friulana del Novecento, uno dei padri della regione autonoma, filologo, docente all'Università di Trieste, di Padova e letterato. Alle 11 invece c'è lo scoprimento della targa di Jacopo Pirona, conosciuto perché è il padre del primo vocabolario di lingua friulana uscito nel 1871. Ma Pirona è anche il padre del museo e della biblioteca civica di Udine. Alle 12 lo scoprimento invece della targa dedicata a Lelo Canton, Aurelio Cantoni, collocata proprio sopra la casa dove è nato in Borg San Lazar, in via Anton Lazzaro Moro, in Borgo San Lazzaro a Udine. Cantoni è uno dei fondatori di Risultive, un movimento culturale e letterario nato proprio negli anni seguenti alla Seconda Guerra Mondiale, scrittore, drammaturgo, giornalista, uno dei primi direttori della Patria dal Friuli. Quali sono i prossimi progetti dell'Ufficio per la Lingua Friulana? Intendiamo portare in realtà il friulano all'interno dell'attività di tutti i servizi del Comune. In particolare ci sembra importante lavorare soprattutto in collaborazione con la Biblioteca Ioppi e con i musei civici, con i bambini e i ragazzi. Anche il Comune di Manzano avrà presto il biciplano, ovvero il piano della mobilità ciclistica, un importante documento urbanistico che ha lo scopo di promuovere la mobilità urbana con l'uso della bicicletta e che ha lo scopo di individuare i principali percorsi ciclabili da realizzare nei centri urbani del territorio comunale. Abbiamo individuato gli obiettivi del biciplano in una serie di incontri, ha affermato l'assessore all'urbanistica e viabilità Valmore Venturini. Entro breve convocherò un incontro con le associazioni sportive interessate che operano sul territorio per sentire il loro parere. Il piano si prefigge l'obiettivo di promuovere l'uso di un mezzo di locomozione ecologico come quello della bicicletta, rendendo più vivibili i centri urbani con meno inquinamento sia rumoroso che dell'aria e contemporaneamente promuovere l'attività fisica. A ciò si deve inoltre aggiungere la promozione turistica del territorio con l'individuazione di percorsi che andranno a valorizzare le eccellenze del territorio manzanese. Proprio nell'ottica della massima condivisione è stato elaborato un breve questionario che in questi giorni è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune e si compone di alcune semplici domande, alcune delle quali consentono anche di proporre suggerimenti e osservazioni. Siamo allo sport, calcio, Udinese al lavoro da questo pomeriggio per i primi allenamenti che si terranno al Bruseschi, il via alla preparazione per il nuovo campionato che inizierà il 20 agosto. Esclusi i sei nazionali che si aggregheranno la prossima settimana, saranno 26 giocatori che da oggi affolleranno il centro sportivo. Dopo un raduno rapido, una cena ieri sera caratterizzato dalla presentazione al gruppo del nuovo direttore tecnico Federico Balzaretti. Da lunedì 17 il ritiro austriaco a Bad Kleinhill, dove i bianconeri si alleneranno fino al 29 luglio e dove si giocheranno quattro amichevoli. Si parte il 19 a Klagenfurt contro la locale ASC. Tra i 26 bianconeri attesi De Olofeo, che da Udine mancava da primavera dopo essersi operato a febbraio, mentre tra i volti nuovi mister Sottil farà conoscenza con i centrocampisti Zarraga e Quina. In attacco Lucca e il brasiliano Brenner. Basket, la Pool Wild West si rinforza sotto canestro con l'ingaggio di Matteo Daross. Milanese del 1989, altezza 2,5 m, Daross arriva a Udine dopo due stagioni giocate con la maglia della Pallacanestro Cantù. Ha debuttato a 18 anni in Serie A con la Virtus Bologna, poi ha vinto il campionato di B con Treviglio. Ha giocato con Barcellona, Pozzo di Gotto e a Verona, quindi a Trieste dal 2016 al 2021. È sempre il Friuli Venezia Giulia il protagonista del concorso giornalistico annuale, nazionale, multimediale, multilingue, premio Simona Cigana, arrivato alla 14ª edizione. Ideato e organizzato dal Circolo della Stampa di Pordenone, l'evento si riferisce ai servizi pubblicati su testate giornalistiche italiane ed estere tra il 1 luglio del 2022 e il 30 giugno del 2023. Oggi scade il termine per la partecipazione. Il concorso, realizzato con il patrocino, tra gli altri, dell'Ordine dei giornalisti, di Assostampa e Ussi Friuli Venezia Giulia, Giunta e Consiglio della Regione, premia i reportage che abbiano attinenza con il Friuli Venezia Giulia in chiave locale, nazionale e internazionale, classificabili nelle cinque categorie stabilite dal bando: inchiesta, sport, artigianato, turismo, infortunistica sul lavoro. Possono partecipare al concorso giornalisti professionisti, pubblicisti, praticanti regolarmente iscritti all'ordine di qualsiasi regione italiana. Il bando e tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito web del Circolo della Stampa di Pordenone. Ed è tutto per questo giornale radio. In redazione ha collaborato Laura Sarasini, per la parte tecnica in regia Tommaso Vinoni e Mauro Ciccarelli. A voi tutti un buon proseguimento di giornata e grazie per l'attenzione. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.